gli scarti sono buccia un poco più. Cerco una moneta, una sigaretta in più. Sono il pazzo di un vecchio bar, l'ubriacone della festa. Mi perdo nel bicchiere per non ascoltare la testa. Picchia forte, io sono un pugile. Non attacco ma so difendere. Picchia ancora più forte, consuma la tua rabbia se vuoi. Tanto io me ne andrò. Gesù mio mi donerà una nuvola lassù e un angelo che bacerò. E da un bacio succederà. Incrocerà spazio nelle vene, solo spazio per Lucia. Scorre sempre dritto e non va più via. Vorrei averti vicino a me, io che ho un grande mal di testa. Nelle vene non mi basti, io sparisco lontano, tu ascolta. Ti amo come la pennichella, come l'acre della naftalina, come le dita grinzate.